applauso a questi qua che adesso sono ipertesi. Stasera se la giocano tutta. Stasera che cosa succede stasera? Anzitutto è una serata un po' così per noi di Fumo Fonico speciale, perché noi oggi compiamo un anno, è il nostro compleanno. Grazie, grazie, grazie. L'anno scorso abbiamo cominciato qui la nostra attività, abbiamo organizzato un open mic, forse qualcuno se lo ricorda, era oceanica la folla, è durato tipo 3 ore e mezzo, abbiamo recitato Dante, hanno recitato un sacco di persone che nel momento, nella serata stessa, si aggiungevano man mano, presi dall'estasi di poter condividere davanti a un pubblico meraviglioso, quale voi siete qui stasera, le proprie poesie. E stasera accadrà esattamente questo, con una differenza, che non è un open mic, ma sono le finali regionali di Poetry Slam. Chi vince questa sera va a Genova il 16 e il 17 giugno a gareggiare per il titolo di campione nazionale. Se vincesse il campione nazionale andrebbe agli europei e andrebbe ai mondiali. È una cosa enorme quella che ha organizzato la Lega Italiana Poetry Slam, che Fumo Fonico si è fatto carico per quanto riguarda Firenze e un po' per quanto riguarda la Toscana in generale. Quindi stasera voi vedrete la creme della creme. Hanno vinto degli slam a Firenze, a Pisa, a Reggello, a Rignano, a Siena, hanno vinto ovunque, hanno vinto le semifinali e sono qui 6 stasera. E se la giocano tutti quanto, insomma, se giocano tutto, e sarete voi a decidere chi stasera andrà a gareggiare appunto per le finali nazionali, perché così vuole la tradizione del Poetry Slam. 5 giurati, 5 persone fra di voi saranno scelte a sorte da Fausto, il mio valletto. Fate un bel applauso al valletto, a Fausto, guardate che bello, che carino che è, guardate che... grazie, grazie Fausto, membro fondamentale di Fumo Fonico, che adesso andrà un po' a giro a distribuire le lavagnette. Veloce, l'ha già fatto. Allora, i giurati, mi alzate le braccia che vi voglio localizzare, giusto per vedervi. Allora, 1, 2, 3, 4, mi manca il quinto. Ah, qui, ok, perfetto. Ci siamo tutti. Allora, normalmente che cosa succede? Ci saranno le persone che si esibiranno qui stasera, avranno 3 minuti a tempo, a testa, di tempo per declamare le loro poesie con 10 secondi di lasco. Dopo i 3 minuti e 10 secondi cominceranno delle penalità, ma questo loro lo sanno bene. Non si esibiranno con costumi di scena, con musica, né nulla, solo loro, il proprio corpo, la propria voce, i propri testi, letti a memoria oppure letti in diretta. Io comincerò a dare un po' la spinta qui stasera, a fare quello che l'MC, il maestro cerimoniale, si chiama in questo mondo, in questo ambiente, il sacrifice, ovvero il sacrificio. Mi farò giudicare da voi, giurati, per farvi capire come dovete votare. Da 0 a 10, con l'uso di un decimale, quindi 6,2, 8,7, 9,9. Il voto più alto e il voto più basso verranno esclusi e si farà la sommatoria fra i 3 rimanenti. Voi dovete giudicare la qualità testuale e il lato performativo, cioè come è stata interpretata la poesia. Fate una somma fra queste due qualità, questi due aspetti, e decretate il vostro giudizio. E a voi è la parola, perché il Poetry Slam è un'azione democratica e il fatto che voi siete qua presenti stasera in così numerosi ci fa capire che effettivamente restituire un po' la parola al popolo, tutto sommato, non è poi così un errore di tanto in tanto. Poi, questo almeno si parla per il Poetry Slam, per altre cose non parlo. E fatemi un bel applauso perché siete veramente meravigliosi. E andiamo a cominciare. Allora, parto col sacrifice. E che faccio? Faccio una poesia che parla di una brutta malattia mentale, o comunque un brutto aspetto della vita per qualcuno, per chi non cancrenizza, appunto, non diventa malattia, però insomma è una cosa che tutti quanti possono provare, ed è l'insonnia. È veramente una brutta cosa l'insonnia. Qualcuno vedo che fa sì con la testa. E io così una volta ho voluto raccontare che cosa accade durante una notte passata di insonne e mi è venuta questa marcia inarrestabile che porta sempre alla stessa identica fine, ogni notte, continuamente. Poi non si realizza mai e ci si ritrova che effettivamente questa marcia è infinita. Questa è la marcia dell'insonne. Fa così. Brucia l'ansia appena posi, carne guasta sopra il letto, e ti raschia la nevrosi prima ancora del sospetto che stanotte resti acceso, nonostante la stanchezza, e ti vedi che già preghi una morte, la ricetta. Nella stanza catacomba non si infila alcuna luce, ma il silenzio d'oltretomba è crepato da una voce senza timbro, senza tono, e ti canta un ritornello, così misero e bastardo che somiglia più a un coltello. Tu non dormi. Tu non dormi, non ci vadi, così alloggi in un sogno che si presta, ma ti incagli nel sussurro che quel sonno lo violenta e ti esplode, si fa suono che ti bracca da vicino, così scappi col pensiero, ma poi resti dentro il cranio e quel verso domicilia tra le pieghe del lenzuolo e ti inquina dal cuscino con il fiato nell'orecchio. Tu non dormi e ti rigiri nella culla del delitto, te la sudi come in guerra, strozzi, sguardi sul soffitto, la condanna ti comanda, avanti, alzati, cammina, scatti in piedi, vai per casa, a cercare droga buona, ma la scorta è già finita e del pusher non c'è traccia, vai di gocce giù a cascata, così aspetti la discesa, ma ora in testa la granata non zittisce quella pena. Tu non dormi, e ci provi con la doccia che ti ustiona pelle e nervi e non si calma nella pancia quel groviglio di serpenti, perciò vuoti la lettura, prendi in mano la recherche, ma sei tu che perdi tempo, per cui provi con la corsa, ma ti manca già il respiro dopo appena mezzo metro, perché il corpo non risponde, ma il meccanico ti spinge verso il peggio della notte che conosci troppo bene, dove premi tasti a caso della tele che ti imbianca, che tu pensi sia d'aiuto, ma t'annoia, non ti stanca, che tra film a basso costo e spot nocivi per il lutto ti ripeti in catalessi le disnote del reato. Tu non dormi, tu non dormi, e il cervello si ribella, disconnette la corteccia, e raccolto giù nel coma, rassegnato nel pigiama, ti contenti della vista d'un terrazzo fronte mura, ma la luce d'alba sporca ti cancella il tuo diritto, torni in casa su di corsa, ti incateni fortellato giusto il tempo, una bestemmia che indovina cosa suona? È la sveglia che beffarda fa la stronza e ti domanda: hai dormito? Hai dormito? Hai dormito? Hai dormito? Hai dormito? Hai dormito? Esci fuori, sia di casa che di testa e al lavoro, non ignorano le borse nere rotte sotto gli occhi e si fanno largo i mostri col refrain che conosci. Tu non dormi, tu non dormi. E col bianco cartongesso della notte sulle guance dici: grazie, ci sto bene, che non sai cos'altro dire. Nel frattempo nelle vene brucia l'ansia già in acconto e t'aspetta come sposa nel tuo letto refrattario. Sputi resa dai sospiri, resti privo di te stesso, non sopporti la sentenza, perciò penetra un pensiero. Non ha senso quest'andare, vai vivendoti allo stremo, che stanotte quasi quasi te la dormi sotto un treno. Grazie, giuria, a voi la parola. Fatemi vedere i vostri voti, avete pochissimo tempo per scriverlo, tipo 5, 4, 3, 2, 1, giurati, su le lavagnette che ve le vengo a leggere immediatamente, su. Ecco. Bene, allora possiamo cominciare le finali regionali della Toscana, l'IPS, Lega Italiana. Poetry Slam, Fumo Fonico, Polveriera, Festival Sociale della Letteratura Sociale. Allora, ve li vado a presentare uno per uno e poi chiamo appunto il primo a esibirsi. Un applauso per Luca Bernardini, Martina Cappai Bonanni, Andrea Fabiani, Eugenia Galli, Daniele Nini Vaienti e Salvatore Zappia. Fate un bel applauso perché comincia direttamente da un'altra regione, Andrea Fabiani! Questo è spento, direi. Si sente più. Usiamo l'altro. Wow. Ciao. Allora, io, come diceva Nicolas, vengo dalla Liguria. Voi sapete che noi Liguri siamo famosi per una cosa soprattutto, la nostra allegria. Non lo sapevate? E allora io volevo cominciare questa serata parlandovi di un argomento estremamente allegro, la morte. Perché magari qualcuno di voi si è posto la domanda: che cosa c'è dopo la morte? Non so se qualcuno si è mai fatta questa domanda. Sì, ok. Io conosco persone che se la sono fatta. Allora, siccome penso che la poesia debba dare anche delle risposte alle domande che le persone si fanno, questa poesia risponde alla domanda che cosa c'è dopo la morte e si intitola La fabbrica delle nuvole e fa così. Che brutto essere morti e non starsene sottoterra, ma doversi svegliare ogni mattino, uscire di casa, far colazione al bar Gino, le brioche, dall'intenso sapore di plastica, il cappuccino bollente. A me da morto sarebbe piaciuto non fare niente. Una bella bara di legno comodo, resistente all'umidità e una lapide di limpido marmo con l'epigrafe «Qui giace in pace Andrea Fabiani». Invece, quando è capitato che sono morto, sono andato nel paese dei morti. Non c'è l'inferno, non c'è il paradiso, purgatorio nemmeno. C'è questo paese dei morti che è un capannone senza confini. Dentro ci lavorano i morti, tutti i morti del mondo, alla catena di montaggio delle nuvole. Sì. Le fanno i morti le nuvole, quella storia del ciclo dell'acqua, falso antepistaggio, un complotto. Dopo il trapasso mi sono presentato all'ufficio all'ingresso, San Pietro, nella destra leggeva il mio curriculum vitae. Mi ha detto, è un brutto momento, la crisi mi ha detto, congiunture economiche internazionali, ma qui leggo che lei è disponibile a trasferimenti e viaggi all'estero. Sorrideva San Pietro. Di un sorriso sospetto, così sono tornato nell'aldiquà. Sono morto, sì, ma ogni giorno mi sveglio alle 5, mi trucco da vivo, prendo l'autobus alle 6:15, poi cambio, ne prendo un altro, poi cambio, ne prendo un altro, poi un altro. Raggiungo un posto segreto, nel profondo di una montagna segreta, in un bunker segreto, io e altri morti come me fabbrichiamo le nuvole, facciamo turni da 10 ore, senza la pausa pranzo, tanto siamo morti. Senza il tempo di una sigaretta, tanto siamo morti. Non veniamo pagati perché tanto siamo morti. Non abbiamo diritti perché tanto siamo morti. La sera torniamo a casa, stanchi morti. Il giorno dopo, da capo. Quando da vivo vedevo le nuvole, pensavo pensieri di indipendenza, provavo un senso profondo di libertà. Non immaginavo per niente quanta morte e sofferenza ci fossero dietro. Andrea Fabiani, allora giuria, okay, qua c'è una giuria collettiva praticamente, giuria, a voi la parola sulle lavagnette, tutti quanti, su. Thank you. le somme non le diciamo per tenervi in suspense fino alla fine dei tempi. Fate un grandioso, bellissimo applauso a Eugenia Galli! Avere un corpo è dato solo ai giovani. È un gioco da ragazzi possederlo, vederlo percepito, adoperarlo. Avere un sesso è dato finché è fertile. Il giovane infermiere sorridente lo sa bene. Mi guarda sempre in volto o non mi guarda. Mi cambia le lenzuola come un mago, le sfila e non mi sfiora. Resto ferma, di ceramica. Soltanto in ospedale ci è concesso portarci addosso un corpo anche da vecchi, ma come fosse un prestito, per poco, di passaggio. Non riesco a ricordare il nome del mio medico, del resto non lo stimo ed è un fastidio sentirlo incaponirsi sulla diagnosi. Mi dice che non riesco più a parlare. Sono afasica. Il corpo in ospedale è un corpo schiavo. Lontano dalla mente che lo avverte, il medico si sbaglia, è un incapace. E un ictus non può toglierti la voce. Questa parte di città non l'ho mai vista, alla finestra si srotolano i nomi delle aziende e dei negozi, certamente nomi inglesi e alla moda, che noi vecchi non capiamo. Ta ta ta. Qui non c'è molto da fare. L'infermiere avrà 30 anni, avrà studiato, ma suppongo che nemmeno lui capisca. Mi sorride se gli chiedo una lettura ad alta voce di quei nomi. Non risponde. Io mi sento una turista in questa lingua. Ta ta ta. Qui di notte resto sola. Ta ta ta. E per qualche folle ora si convince il personale sanitario che io renda al mondo il corpo, che mi scada questo prestito ogni sera, come già nell'aldilà vivessi in sogno. Di nascosto, questa mano ancora viva mi dà gioia, mi dà voce e c'è un nome che ricordo ed è Tommaso. Ta ta ta. Al mattino finalmente c'è una visita. Ta ta, c'è mia figlia, piange forte. Mia nipote ride isterica e mi porge tra le lacrime un aggeggio tecnologico alla moda, sempre col suo nome inglese, ta ta ta. Da cui esce questa voce, che è la mia, ma non riesce più a parlare, perché è afasica. Ta ta ta, ta ta ta, ta ta ta, ta ta ta. Come detto, per eserto c'è Tommaso, ta ta, maso come vaso, ta ta ta. Siete grazie divenute, ta ta ta, c'è Tommaso, come detto, come vaso. Tutto bene, porca troia, tutto bene. Grazie. Vi sta piacendo? Bene. Giuria, allora, tocca a voi. Su le lavagnette, tutti quanti. Allora, vado a leggere. 8, 7,3, 8,8, 8 e 8, va giù. Sulle lavagnette, va giù l'8,8, il 7,3 e rimane 8, 8 e 8. E prosegue l'applauso perché è il turno di Daniele Gnigne Vaienti. Buonasera, buonasera. Allora, alcuni anni fa, ascoltando una canzone di Guccini, sono incappato in una parola, in una frase. Lui dice: quando sono nato io, la morte stringeva la vite e la gente del mondo ingoiava cordite. Io non sapevo cosa fosse la cordite, lo sono andato a cercare sul dizionario. E la cordite è un'infiammazione delle corde vocali, che comunque rende doloroso parlare, ma è anche il nome di un potente esplosivo, usato credo dai minatori, comunque un esplosivo. Questa doppia valenza della parola mi ha fatto pensare ad una cosa mia. Io, per quanto sono l'uomo più single che conosco, tanti anni fa ho avuto una ragazza, Questa ragazza mi criticava sempre il fatto che non dicevo quello che pensavo, non dicevo quello che provavo, non dicevo se ero innamorato, quello che provavo per lei, e allo stesso modo non dicevo se ero arrabbiato, indispettito per qualcosa, non dicevo un cazzo. Lei mi criticava di essere apatico e io mi giustificavo, no, ma che apatico, ma forse io sento troppo e poi non riesco a esprimerlo. Però era una cazzata pure quella. A distanza di circa 10 anni ho trovato una sorta di risposta, ci ho scritto una poesia che si intitola Io sono cordite. Dicevi sempre che avevo fiato solo per ridere e bestemmiare. Tanto bravo con le parole, dicevi, però al momento giusto non le sai usare. Il fatto è che ogni emozione è come cordite che mi infiamma la gola e di quello che provo non dico mai niente, neanche una parola. Ti sei arrabbiata e mi hai aggredito quella mattina che ti ho detto ti amo, ma con la bocca ancora piena di dentifricio. Proprio non l'hai capito che il mio era solo uno stupido artificio per riuscire a rendere leggere parole che non avevo la forza di sostenere. Anche il mio non insultarti quando litighiamo non ha niente a che fare con l'essere buoni. È che le mie parole spesso sono come lampi che non hanno il coraggio per diventare tuoni. Della mia rabbia, tu vedi forse il pugno chiuso, però poi non lo senti il nervoso, la gastrite. Non capisci che in gola ho cordite. Le parole che non dico poi mi esplodono in testa, che tu da fuori vedi solo quiete, ma ciò che provo è tempesta. Alle volte vorrei parlare, ma non riesco a fare altrimenti. Le parole prendono la rincorsa e dopo inciampano sui denti. Vengono fuori tutte rotte, tutte storte, altre parole. E allora ti amo diventa non andare via. E mi stai facendo male diventa cosa vuoi che sia. Le mie parole sono passeggeri, fermi alla stazione dei pensieri che guardano i loro treni partire senza trovare il coraggio di salire. Spesso parlo tanto, è vero, scegliendo parole a caso, ma con cura, tra le poche di cui non ho paura. La verità è arrivata a mite e poi si è accesa come un petardo. La parola giusta per me non è cordite, la parola giusta è codardo. Daniele Gnigne Vaienti. Allora, giuria. Buonasera Dalia. Buonasera. Giuria sulle lavagnette, vado a leggere i voti. Allora, 8,5, 9, 8,5, 8,5, 7,5, va giù un 9, va giù il 7,5, quindi 8,5, 8,5, 8,5. Per Daniele Gnigne Vaienti, un bel applauso, è il turno di Salvatore Zappia. Grazie, buonasera a tutti, questo è un pezzo che parla dell'amore e di come ci prende tutti quanti per il culo. Fa così. Andiamo a convivere? No. Perché? Te l'ho già spiegato, rispiegamelo. Perché io dormo a stella, perfetto. Io dormo a mezzaluna. Non mi farò mai il caffè, lo odio, e mi farò sempre te. Voglio fare le cene a casa con le mie amiche, andrò a cena fuori, con i miei amici. Ma io non ti amo, e tu invece sì, smetterò, non puoi. L'ho appena fatto. Va bene, allora possiamo andare a convivere? Ora non mi va più, perché? Perché non è vero che dormo a mezzaluna. Vabbè, tanto il letto è grande. Non mi farò mai il tè. Vabbè, tanto ti svegli sempre dopo di me. Mi stanno sul cazzo le tue amiche. Va bene, allora andrò io a cena fuori. Ma io non ti amo. E tu nemmeno. Comincerò. Non puoi. L'ho appena fatto. Grazie. Salvatore Zappia! Veloce, incisivo. Giuria. Su le lavagnette, dunque 9,3, 7, 8,5, 8,7 e 10, va giù, il 10 va giù, il 7 e rimane, 8,5, 8,7 e 9. Per Salvatore Zappia è il turno, un bel applauso per Luca Bernardini! Sai, ho pensato che non ne vale la pena. Il sollazzo non vale il mozzicone. Rischierei di te imbambolarmi, patire che non mi posso davvero accordare, ho quittato. Oblieremmo il globo e faremmo un muschio di cazzate, complice mensa. Un verdì mattina magari io farei una battuta e tu crepapelleresti per quasi 10 primi come una fanfolina. Una menica meriggio magari drineresti al mio zerbino, scrosciata zuppettosa, mi schioccheresti forte e poi scosteresti sipario dolce odontoiatria a palpebre sdraiate, nasino pressato contro il mio ed una stilla di acqua e due omi scivolerebbe giù verso la linea sorriso. Un giugnembre magari saremo reciprocamente sul poltrone, sotto più strati piuma, febbriciati e morbettosi oltre 40 termometri, ad occhiosi mirando un bang bang giapponese al cate catodico. Passeremo dei momenti così, tutto un cielo azzurro, che a ripensare a quei bei tempi, mi terzo graderei. Ma serio ha avuto luogo? Geluso di me stesso quando ero sotto la tendina dei tuoi sottili seta, nello straguascio intimitino dei visi e del respiro. Un giorno agosto magari io tornerei a casa dopo aver fatto trombete altrove, e tu lo carpiresti ratto e mi scoltelleresti oltruscio. O magari tu faresti trombete, ed io non lo affarferei, ma tu me lo sputeresti chiaro e mi arringheresti reo, che non ti accoccolo a dovere. Rischierei di lasciarmi scaccomattare il tutum tutum dalle tue asserpaggini, o da quelle che non riuscirei a farti a meno io. Non voglio passare le ore ad aspettare di spupillarti, il tuo lasciarmi empto quasi più sciropposo dell'infinaverti, e tutte quelle tinghe che inizialmente ci daremo così spontente, dolcente, l'un l'altra mente, finiremo per chiercele, e poi per prenderle, niente sarebbe più spontaneo, dolce o l'un l'altro. Mi fa già ribollio. Il momento in cui sulla bilanca i nostri desini non peseranno uguale, ed è insobbarcabile. La pugna meticolosa dei pesini per rewindare tutto a posto. Convincersi che può tornare come ante. Ma come sì? Non sopporterei di dover formattare il tuo corpo a puzzle puzzle, la tua buccia lisca, il tuo aroma, il gustalizio della tua labbrosità. So già che il tuo formato è collinato e avvalloso, rigogliato e aggrazioso, tutto nei loci adequi, senza averti scartata affatto. So già che la tua pelle è in vero vera similmente, so già che il tuo doreggiare ha un parfumo, che non saprei disappressarmene dopo averti ispirata troppetto. So già che mi ci labirinterei nella tua bocca, scannucceresti via le mie certezze in un sol succhio, e senza loro io non vivo. E quindi scusa se ti chiedo questa, di non amarmi, di non appressitarti, di non digitarmi, di non understanderti sotto di me amplessosamente. Se mi ami, non darmi nessun d'inizio bacio. Io farò lo stesso. Perché ti amo. Grazie. Luca Bernardini, giuria! Allora, su le lavagnette... Su, tutti quanti. Allora, 9,9, 8, 9,5, 8,6, 8,9, quindi va giù, sulle lavagnette va giù, l'8 va giù, il 9,9 rimane, 9,5, 8,6 e 8,9 per Luca Bernardini. Un bel applauso per l'ultima che si sta per esibire qui, dopodiché vi interrogherò. Quindi un bel applauso per Martina Cappai Bonanni. Eccola qui, vieni. Dunque, io vengo dal Piemonte Siccome questa cosa che non sono tanto capace ad arrabbiarmi, cioè che in generale non mi arrabbio facilmente, però allo stesso tempo mi rendo conto che ci sarebbero tantissime cose di cui arrabbiarsi, ho scritto questa poesia che si chiama Io che provo ad arrabbiarmi. Se sapessi arrabbiarmi, avrei abbastanza rabbia da riempire un vulcano. E rutterei tutto d'un tratto, e rutterei come facevo un tempo, prima che mi insegnassero che ad una donzella non si addicono tali usanze. E urlerei che sì, mia madre è ancora morta, e dove sono adesso le condoglianze? E mi arrabbierei perché un tizio in felpa verde ce l'ha con me e io non gli ho fatto niente. Mi dicono che sono contro natura e ci sono tante cose cui io sono contro. Contro il razzismo, l'egoismo, contro il sessismo, contro le persone che tirano su con il naso in modo molesto sui treni, ma questa natura, figurati che neanche l'ho mai vista. Io, se potessi arrabbiarmi, ce l'avrei a morte con due parole, naturale e normale. Dichiarerei guerra a loro e sarebbe solo legittima difesa per tutte le volte che mi hanno offesa con le loro scatole, con le loro etichette maledette, marchiate a fuoco perché mi piacciono le tette. Se sapessi arrabbiarmi, darei fuoco a loro, ai loro sguardi codardi che hanno il coraggio di sfiorare le nostre mani intrecciate e sporcarle, alle loro parole che sbiadiscono il colore del rosso sulle guance, del calore sotto pelle, dei voti e dei vuoti e delle memorie infrante. E se sapessi dire parolacce, manderei a fanculo tutti quegli occhi che hanno fatto nascondere i miei baci e tutte le volte che taci e non mi chiedi come stia la mia ragazza, che al momento non ho ma che per te non esisteva neanche quando c'era, e non mi dici quanto sia bella, non la includi nella famiglia, ma ti ricordi sempre del ragazzo di mia sorella. Mi arrabbierei con te che non sai niente di me ma mi chiedi se ho un ragazzo. Sto cazzo, ma mi hai vista? Ti sembra che questa camicia sia stata costruita per essere sbottonata da dita ruvide, spesso avide? Ti sembra che queste labbra chiedano altro se non bocche tiepide e delicate? Ti sembra che la ragazza con cui passavo le nottate possa essere chiamata amica? Te lo devo dire in modo esplicito che dentro di me c'erano le sue dita, ma non vuoi vedere, se solo cancellare. Immagino che non ci sia niente da fare, presumerei che mi piacciono gli uomini finché non mi vedrai camminare mano nella mano con una signora, e perfino allora di certo saremo solo compagne d'avventura. Sai, non è che rodo, è che mi erode questo continuo dover rinnegare e omettere, mettere da parte la parte migliore che ho e annego in quest'acqua troppo fredda ma mai trasparente quanto me. E continuo a non potermi arrabbiare. Riesco solo ad amare di questo amore che tu ti ostini a condannare. Grazie. Martina Cappai Bonanni. Giuria, sulle lavagnette. 7,5 va giù, 7,5 va giù, 9,5 rimane, 7,8, 9,8,3. Allora, aspetta, sulle lavagnette di nuovo, per favore. Il notaio mi chiede di ripetere. Il notaio è nascosto fra di voi, ovviamente, così non potete. Un 8,3 col 3 al contrario. Non serve, ok. 7,8 e 9 comunque, per sicurezza. Bene, allora Fausto, vai a raccogliere per favore le lavagnette. Grazie. Dunque, l'interrogazione verte a questo quesito. Questo è il quesito. Volete fare una pausa adesso di 5-10 minuti? O volete che facciamo un dritto, un altro turno da 6, facciamo poi la pausa? O non facciamo proprio la pausa? Ora no, siete caldi? Oh, vabbè, e allora via, ci sveniamo, porca puttana. Vai Fausto, dobbiamo riconsegnare subito le lavagnette. Ma no, il cancellino, diabolo, è il cancellino, è la parte essenziale. Ah, la giuria collettiva, qua le tre donzelle. Capito, capito, capito. Ecco, stiamo riconsegnando le lavagnette. Ricordo i giurati, da 0 a 10 con l'uso del decimale dovete giudicare il testo e la performance. Che ridere. Bella, Fausto, hanno trovato il cancellino, non te l'avevano fregato. Vedi come sei subito pronta a colpevolizzare? Eh? Sei pieno di pregiudizi. Sei pieno di pregiudizi. Dai, Fausto, ce li hai o no? Sono 5 persone che scegliere, mia. Ne hai 764 qua. Li ho contati 7,3 volte. Allora, polveriera, siamo di nuovo qui, e immediatamente, senza nessun tipo di break, grazie per non farmi fumare nemmeno una sigaretta. E ripartiamo immediatamente con un altro turno da 6. Alla fine di questo però ce ne rimarranno 3. Solo questi 3 accederanno all'ultimo turno, all'ultima finale. Saranno sommati il turno che avete appena visto concludersi e il punteggio che otterranno in questo secondo che sta per iniziare. E quindi io vi invito calorosamente a fare di nuovo un applauso, visto che adesso si fa il turno inverso, nuovamente a Martina Cappai Bonanni, che giustamente era quella più in fondo nell'angolo. Proprio te devo chiamare per primo. Vai, bella. Ok, quindi niente, vi beccherete un'altra un po' molesta. Vabbè, niente, questa è su una figura mitologica che molti non sanno che esista, ossia la figura della lesbica, e si chiama Sì, esistiamo. Sì, esistiamo e no, non solo nei porno. Esistiamo anche di giorno, a piede libero, allo stato brado. Basta solo che ti guardi intorno. Ci riconosci, siamo quelle con flanelle e bretelle, siamo le lelle. Se invece hai uno sguardo fermo all'era romana, se ci credi fantasma, chimera o leggenda metropolitana, se pensi che senza signori non esista signora, sai, dovrei credermi sulla parola, ma sì, esistiamo. Esistiamo anche senza il tuo occhio e non abbiamo effetti collaterali, né siamo vettrici di malattie letali. Tranquilli, non vi contagiamo, ma sì, esistiamo. Esistiamo e, grandissimo colpo di scena, a volte persino scopiamo. Perché abbiamo voglia, per puro sollazzo, perché ci amiamo. Segue sgomento, dilemmi e spavento, ma senza il cazzo, come facciamo? Clicca qui per l'illustrazione grafica, qui per l'illustrazione di Ikea, per una dimostrazione pratica, ti piacerebbe. Sì, esistiamo e il nostro nome non è insulto, è solo il tuo insulso tono di voce a renderlo tale, è solo la croce più vecchia del mondo a dipingerci il male, ma che male vi fa se noi ci teniamo per mano. Dunque con il vostro consenso, ma anche un po' senza, se permettete, noi esistiamo. Grazie. Martina Cappai Bonanni, allora la neogiuria si è insediata. Insediata. Sulle lavagnette, porca miseria, ma sceglimeli più distanti la prossima volta. Questa me la paghi. Allora, un bel applauso perché è il turno di Luca Bertolini. Bernardini, che ha pagato il pubblico, sappiatelo, sappiatelo. Papà, ho pensato un po' sti giorni. Visto che te non me parli, ce parlo io con me. Ho pensato che bisognerebbe proprio togliere quelle sedie azzurrine che ci sono in cucina. Con quel neon fanno una combinazione letale, pare una bettola in qualche schifo di cantina. Mi sono reso conto che la tristezza della vita mia potrebbe essere in parte dovuta anche a quello. Sta luce, ste sedie con sta luce. Sto neon che te si infila nel cervello. Sono sempre state lì, ste robe. T'abitui a tutto e mica ci fai caso. Pure a vederte così me so abituato. Pensa che rigagliardo è tosto. Con due spalle, con due coglioni. Mo' me sembri un pezzo di cacio senza maccheroni. Ma chi te lo fa fare resta con sta faccia? Brutto sei. Sei proprio brutto. Magni con questa cannuccia di flebo, caghi nel pannolone, pisci in sta sacca gialla. Mi pare troppo lungo questo lutto. Sto resta ostinato mezzo a galla senza affogare mai del tutto. Se non fosse per culo dell'infermiera, col cazzo che ci verrei. Te uso come diversivo, ma io in realtà vengo per lei. La verità è che mi sento un debito, però. Senza di te non sarei l'uomo che so. Pregi e difetti, non ci allargamo. A me la tanto vi abitor saluta quanto il ramo, eh. Allo stesso tempo mi penso a tutte cose che potrei fare invece sta qua a parlare da solo. Con tutti i problemi che c'ho, pa. Non so quanto senso c'ha venite qua a fa sta solo. Mi manca li sordi, mi manca una fregna. Trovarmi una casa che non sembri una fogna, fare un figlio, avere una vita degna. Te possino acciaccà. Te il tuo programma de merda de morì a metà. T'ho scritto una poesia, vuoi ascoltare? Il primo verso fa: a rosa c'ha le spine, a rosa c'ha petali, a rosa c'ha il gambo, a rosa c'ha le foglie, a rosa è un fiore, che quando ha da morì more. Tutta a trattarla come se fosse chissà che invece. Come la vita quando è l'ora di metterci una croce. Ne fai 70 tra due giorni. Per me sei fermo a 68. Che so 2 anni che non torni. Con l'amici mia da curva. Te famo un coro de compleanno così. Devi morire, devi morire, devi morire! Te saluto ora, devo andare al cantiere. Se vediamo per festeggiarte tra mazzetto d'ore. Oh, mi raccomando, non scappa. Te porto un dolcetto simbolico. Preferenze, pa? Oh, lo so già. Grazie. Luca Bernardini. Salvatore Zappia. Faccio una brevissima premessa. Questa è una cosa che ho scritto qualche anno fa durante un viaggio che ho fatto con un gruppo di teatro a Auschwitz-Birkenau. Dovevamo fare uno spettacolo. Siamo andati a Birkenau, che è un'enorme distesa, era fine gennaio, un'enorme distesa di ghiaccio e neve. Ci sono questi capannoni. Ci siamo persi all'interno, diciamo, ognuno faceva un po' il suo percorso e quello che ho iniziato a sentire lì dentro e che non mi aspettavo assolutamente era niente, cioè non sentivo assolutamente niente, nessun tipo di empatia con quello che avevo intorno, che era terribile, ma non mi colpiva minimamente, finché a un certo punto non è successa una cosa, ho guardato fuori dal recinto dove c'erano le torrette, ho visto a un certo punto un polacco che stava passando fuori in bicicletta tranquillo e andava per la sua strada, e ho pensato a quel punto quante volte probabilmente questa cosa è successa anche quando il campo era aperto, e improvvisamente questo contrasto mi ha fatto iniziare a provare qualcosa, e fa così: sorridi, si scioglie, la tua lingua infinita ci abbraccia, ci coglie, ci invita, nel ferro, nel fuoco, nel gioco un cammino e una storia all'intorno, c'è il forno vicino, cammino, per ore, nel quieto terrore, perché sono, perché esisto, perché ho visto e mi disseto d'esistenza in esistenza, tra le reti che varcai l'esistenza non fu mai, non fu mai. Non mangiai, non bevetti tra i ghiacciai di piscine trasparenti, spia la neve, mostra i denti, il passo greve che tremanti fa rumore tra il dolore di una vita senza velo, guarda il cielo. Sei perfetto, sei invincibile, inviolabile è l'effetto, corro adesso tra i binari, come posso, se separi quei diamanti, quegli amanti, quei che vissero incuranti tra le orme del passato, non vissuto, non restato, dei cerbiatti qui volati, come orme nella terra son puntati su chi vive, e chi non vive muore adesso. Su quel cesso, magari in mezzo ai fari di quel rosso, che la neve sveglia se riposa, che imbriglia il ghiaccio in una rosa, che infila una moneta nel cielo e Dio sa per pagare cosa. Ho voglia di piangere e non ci riesco. Ho perso le mie lacrime in un pozzo di sale, mi fa male ritrovare la mia sete, rivedere la mia pace tra le spine di una rete improvvisa, ma verace, su di una bicicletta, un uomo solo, torretta dopo torretta, come i corvi s'alzano in volo, né perdono, né memoria, né pietà, ma chissà per quale suono. Poi si gira, guarda intorno, è in bicicletta accanto all'inferno. Questo inverno sta di vetro, guardo indietro, se va in pezzi, come un puzzle, come un gioco che disprezzi, perché poco, forse niente, ciò che prendo, ciò che intendo, dai camini, dalle torri incastonate, le budella attorcigliate, dentro il filo che lo sguardo attraversa col ritardo di chi giudica alla fine, in quest'area di confine c'era fango, c'era ghiaccio, ora piango e poi mi taccio, invece niente, indifferente il mio animo di stracci. Poi li vedo. Gli sorrido, due bambini sui pancacci, e vorrei non vomitare, rimanere qui a guardare le parole tra i riflessi delle rose sopra i cessi, mentre cado a terra stanco e mi appare un cielo bianco. Bianco da ridere a vederlo così bianco. Bianco come un foglio su cui scrivere una storia che riporti la memoria di un momento, ma non sa che cosa dire, lo guardi. Mentre lo guardavo, ci hanno disegnato un disco rosso nel cielo di Birkenau. Grazie. Salvatore Zappia per il secondo girone, finale regionale Poetry Slam. Allora, giuria su le lavagnette. Fate un bel applauso, è la sua seconda chance per Daniele Ghigne Vaienti! Ok. Toglimi una curiosità, ma com'è vivere così? Vivere così come? Così, dai, come te, hai capito? Hai presente quando sei in macchina? Seduto sul sedile passeggero mentre alla guida c'è un incapace. Te ne stai lì attaccato al sedile e non ti fidi. Hai paura. Certo che ho presente, ma cosa c'entra con... C'entra. Perché io mi sento così. Vivo costantemente attaccato al sedile perché ho paura di chi è alla guida. Ma scusa, ma la tua vita la guidi tu? Appunto. Giocavamo a dare un nome ad ogni goccia di pioggia, rintanati in qualche angolo di mondo, rifugi mal addomesticati, che in quei momenti però ci sembravano essenziali, quasi fossero davvero casa. Il frigorifero sempre vuoto, i posaceneri colmi e i cassetti pieni dei miei foglietti scribacchiati, mozziconi di poesia. Solo adesso, mi è chiaro che stavamo scappando. Io citavo poeti morti di cirrosi e li invidiavo. Tu guardavi le ragazze degli altri, ti chiedevi dove la gente riesce a trovare il coraggio. Io ululavo al soffitto del tunnel e tu mi dicevi di guardare la strada. Guidi come un cane, dicevi. Le corse sulle 45 verso Ravenna, la nostra capitale del tempo perso. Quel freddo artificiale e poi vampate di sudore. La fretta di correre ad essere niente e la rabbia di ritornare ogni volta un po' meno uomo. Facevamo vedere i denti al mondo intero, ma erano denti guasti i nostri. Non sapevamo ringhiare davvero. Avevamo solo una paura fottuta che potesse crollarci addosso quel nostro castello di stuzzicadenti. Che stupidi. Aggrappati alle nostre stesse mani nel tentativo di riuscire a sollevarci, con le nostre braccia forti ma piene di lividi e punti deboli. Le continue rivoluzioni interiori quasi tutte perse e poi la conta dei danni. I tuoi desideri sempre senza museruola e i miei, col guinzaglio sempre troppo corto. Le mie collanine di perle di saggezza, puramente estetiche. Noia, bellissima, impassibile e beige. Noia che fa appassire. Quanti errori si possono commettere in 20 anni e quanto grandi? Quale tra quegli errori ti ha portato là, seduto in cima a quel palazzo, praticamente in riva al cielo? Solo lo schiumare delle nuvole, spaventate dalle onde del vento, e il nuotare perfetto degli uccelli. Seduto in riva a quel cielo con la consapevolezza di non saper nuotare, ma un desiderio massacrante di scappare da tutto e tuffarti, affogare in quel cielo mentre arrugginisce nel tramonto. La vita, a volte, è una promessa che non sappiamo mantenere. Hai saputo di Marco? Ieri Marco è morto. Morto? E di cosa è morto? Di cosa vuoi che sia morto? Di quello di cui muoiono tutti i drogati. Ah, overdose? No, paura. I drogati muoiono di paura. Daniele Gnigne Vaglianti, così se l'ha giocata per il secondo turno. Giuria, tocca a voi. Vale, è andato bene. Eccola che si avvicina. Fate un bel applauso alla sveglia di tutti i soli, quella che ce li ha nel cognome, Eugenia Galli. Questa è vecchia. Padre, che già ti trasformi in tuo padre. Mutuo animale ordinato che conta i figli che ritornano alla cuccia. Padre cane che hai visto e lottato. Ti sei guadagnato il pasto migliore in barba che ti voleva avvocato. Cane che hai fatto per anni il padrone e ti soffiavo sul muso impotente la puzza di paura e altre bestie. Ora taci sulla ciotola. Che una sola parola non scateni il cucciolo coi denti più affilati che non rida di te. Vecchio lupo consumato. Capobranco per ancora chissà quanto, finché il tuo occhio chiuso fa paura e trattiene tutti i boschi e tutti i mari e le bestie in agguato sulla culla. Padre, alla conta di un padre stasera, manca un figlio che è stato mio amico, preso dai mostri che tu scongiuravi. Stai ancora una volta in silenzio mentre la mamma mi abbraccia e mi dice «Adesso devi solo ricordarlo». E mantenerne viva la memoria e poi sputare in faccia quelle bestie di cui non hai paura. Grazie. Eugenia Galli! Siamo quasi al termine, siamo quasi al termine. chiude questo secondo giro esattamente colui che iniziò il primo. Un bel applauso per Andrea Fabiani! Non faceva parte della poesia, non faceva parte della poesia. Allora, io ho un problema abbastanza grosso con le poesie d'amore. A me non piacciono, io non le vorrei scrivere. Però poi mi capita questa cosa che le scrivo mio malgrado, cioè che io sto scrivendo una roba, poi mi giro, mi distraggo, guardo fuori dalla finestra, riguardo il foglio e cazzo, è diventata una poesia d'amore. Allora, con questa ero convinto di essere andato bene fin quasi alla fine, ero convinto di aver scritto un testo che parlasse della relatività della percezione temporale nell'essere umano. Che già, beh. Poi l'ho letta e mi hanno detto che no. Allora io ora la faccio e poi mi dite. Si intitola Mentre. Decine di aerei lasciano il suolo, decine vi fanno ritorno. Mio nonno passeggia in spiaggia da solo. Un treno arriva in orario alla stazione centrale ed esplode tra le braccia del suo nuovo amante. Ancora una ricca signora si illude. Un ragazzo esce da scuola e attraversa distratto la strada e lì muore. Migliaia di altri ragazzi nello stesso istante attraversano altre migliaia di strade e non gli succede niente. Una donna che non sorrideva da 7 anni e 2 mesi sorride. 300 persone sbarcano vive in Sicilia in un giorno di sole, un politico ne chiede la morte, poi prega il Signore in bianche, stanze splendenti, uomini e donne vengono assunti per vari lavori, altri sono licenziati, altri ancora prendono coscienza dei loro tumori. Una bella ragazza, dopo aver rimandato più volte, decide di farla finita nell'abitacolo di una vecchia Fiat Punto, si concepisce una vita. Una commessa, pesa la frutta a un'anziana signora, tua madre piange in cucina, da sola, mio padre legge il libretto delle istruzioni di un tavolino svedese rotondo. Si spegne una stella, si accende un lampione. Dall'altra parte del mondo nasce e svanisce un arcobaleno. Un uomo in Louisiana sente bene il veleno di un'iniezione letale fare il suo corso. Un bambino accarezza di nuovo il cane che l'aveva morso. Il rombo di un tuono segue il lampo che l'ha generato. Sangue e denaro dovunque, prelevato, versato, milioni. Di SMS viaggiano in cielo, sospesi fra telefoni cellulari. L'ultima lettera d'amore del mondo si perde fra 2 minuscoli uffici postali. Piove, una pioggia di bombe sopra un deserto. Un vecchio locale in cui andavano i miei viene riaperto. Un uomo torna a casa e dopo 36 anni si toglie la fede, la posa, guarda una foto e le dice «Ti voglio bene». E tutto questo è soltanto tutto quello che avviene. Mentre io e te ci diamo la mano e stupidamente pensiamo, senza il coraggio di dirle le parole per sempre. Andrea Fabiani chiude il secondo girone della finale regionale Poetry Slam, poi accadranno cose. Giuria. Grazie, raccogli le lavagnette mentre Fausto raccoglie le lavagnette. Il nostro notaio, a cui va un bel applauso, Matteo Mannocci, si appresta a fare i calcoli difficilissimi, come avete notato, che sono tutti integrali di derivate, limiti, studi di funzioni. Avete notato? Vediamo se raccoglie prima Fausto. Ah, le sta già ridistribuendo. Grazie, Fausto. Hai risultati? Vieni. Qual è il problema? Vieni qua a parlarmene. Vabbè, quello non è un problema. Se quello non è un problema. Dopodiché, allora, mi pare di capire che l'andazzo sia quella che volete vedervi la finale, giusto? O volete far pausa? No, volete vedervi la finale. Finale. Minchia, siete caldissimi. Allora. Allora, resta pure con me. Fumofonici, venite qua. Venite qua. Fausto, Matteo, Gabriele Buonafoni, venite. Perché comunque, se tutto quello che sta accadendo qui stasera sta accadendo, è anche grazie a queste bellissime persone, il collettivo Fumofonico. E visto che è il nostro compleanno, io faccio la cazzata e vi chiedo, ce lo cantate un tanti auguri così, giusto per farci... Ma sappiate che se tutto questo è possibile, in realtà grazie a voi, e quindi il più grande applauso va a voi! Qui su con me, per favore, i finalisti di stasera, che vi faremo tutti un bel applauso prima della finale. Quindi Andrea Fabiani, Eugenia Galli, Daniele Nigne Vaienti, Martina Cappai Bonanni, Luca Bernardini, Salvatore Zappia, venite qua. Venite qua, fatevi vedere, siete stati tutti magnifici. Era evidente che vi meritaste un posto qui stasera. Ora, c'è stato effettivamente un pari merito al terzo posto. E quindi, come vuole la tradizione, sono in realtà arrivati quarti ex aequo. A questo punto si farà, purtroppo per loro, una finale a due anziché a tre. Lo so, ma ci tenete così tanto? E allora li ammettiamo tutti e quattro, via, vai. Bene, allora salutiamo anzitutto chi stasera purtroppo non ha avuto modo di accedere al terzo e ultimo turno. Con 47,2 Eugenia Galli, la salutiamo, ciao. È giusto così. E salutiamo con 47,6 Martina Cappai Bonanni. Grazie. E quindi li avete qui, quattro finalisti per il terzo turno: Daniele Nigne Vaienti, Luca Bernardini, Andrea Fabiani e Salvatore Zappia. Quindi, andate pure giù. Fausto ha già riconsegnato le giurie. Giuria, la vostra è la giuria più importante. Io non vi ho detto i loro voti, giustamente, per non condizionarvi. Ah, qui abbiamo ancora più suspense. Speriamo che riescano a leggeranno il testo. Più che altro mi si vede in faccia, li si vedrà in faccia per le foto? Si vede? Sì? Ok. Okay. A me non è importante mi si veda, però. Allora. Grazie Bube per la tua calligrafia bellissima. Oh. 6,5, 29 così. Allora, ok, ci siamo. Quindi, sì, parte, ok, lo so, è un casino, parte, ok, ci sono, perfetto. Fate un bel applauso al primo dei quattro finalisti, quindi l'ultimo girone, per stasera, finali regionali, Toscana, l'Ips, Lega Italiana Poetry Slam, Fumofonico, Festival della Lettura Sociale, Villa Polveriera, Firenze, Salvatore Zappia! Questa è una breve, spero, filastrocca che ho scritto quando ho fatto 31 anni, non vi dico quanto tempo fa, e è proprio durante la notte ho scritto questa cosa. E fa così. Ascoltando un po' di radio, proprio mentre andavo a letto, ho sentito nell'armadio un rumore assai sospetto, ma vicino con cautela, apro l'anta principale e li vedo tutti in fila, che mi guardano un po' male. Stanno lì 30 nanetti proprio accanto alle mutande, chi ha la barba, chi i baffetti, chi non fa che far domande. Ma vicino ancora un poco e mi sembra che i cassetti si ingrandiscano per gioco e con loro quei folletti. Mi ritrovo in mezzo a loro. Hanno tutti la mia faccia, chi è più vecchio e più maturo, chi è più giovane ed in ciccia, fino a giungere i bambini con quegli occhi grandi neri e i neonati un po' bruttini che mi mostrano i sederi. Ma chi siete? Chiedo al primo, che mi guarda un po' saccente, mi risponde: ma sei scemo? Non ti viene in mente niente? Siamo quelli che hai lasciato, non curandoti del danno tra i ricordi del passato, uno ad ogni compleanno. Ogni tanto, mentre dormi, ti prendiamo per l'orecchio e ti urliamo sogni informi che non può capire un vecchio. Sono piccoli ricordi e frammenti di canzoni, al mattino te li scordi, non son degni d'attenzioni, sei testardo, lo sappiamo, devi sempre andare avanti, si può dire che sei uomo, ti facciamo i complimenti. Ma le piccole passioni, che ti dicono chi sei, che ti generano emozioni, ma chi pensi che le crei? Senza quelle sei un trattore che si lancia in mezzo al grano, mieti spighe come ore ed il tempo passa invano. Dacci retta, per favore, lascia perdere la fretta, stai tranquillo. Il mietitore è lì fermo che ti aspetta. Ma fin quando puoi sentirci, non sfuggire al nostro canto, non stufarti di cercarci, siamo il riso, siamo il pianto, siamo i sogni malandati, consigli trascurati, le ragazze ormai perdute, siamo i voli e le cadute. Se mi guardi bene in viso, come un'anima allo specchio, hai lo stesso mio sorriso, non ti puoi sentire vecchio. E mi sveglio nella notte, ripensando al mio passato, alle storie mai interrotte, a chi ho perso, a chi ho trovato. Mi rigiro nel cuscino, guardo dritto nell'armadio, ma non c'è nessun omino e mi riaddormento adagio. Era solo un buffo sogno, non esistono i folletti. Non ne abbiamo più bisogno, siamo esseri perfetti, sempre cinici e sagaci, come chiede questo mondo, di soffrire non siamo capaci, non è igienico e giocondo. Ma per oggi io mi fermo, scendo un poco dalla giostra, guardo fuori dallo schermo e mi metto meno in mostra. È così che li rivedo, quei cosetti saltellanti. Sono veri, almeno credo, mi salutano contenti. Forse voi non mi credete, ma guardate il vostro armadio. Ora spero scuserete, devo accendere la radio. Grazie. Salvatore Zappia, giuria! Io non ci siamo ancora presentati, no, non so dove siate, quindi io vi dico semplicemente sulle lavagnette, voi le tirate su e io... Un bel applauso a Daniele Gnigne Vaienti! Io sono un fan delle lettere, che non si usano più, lo so. Però io mi sono trovato a doverle scrivere, perché per comunicare con alcune persone e... ho imparato che con le lettere succede qualcosa di diverso rispetto a quando si scrivono i messaggi. Ti prendi il tempo di decidere che cosa ci vuoi mettere davvero in quella lettera. E se qualcosa poi non è importante, lo togli dalla malacopia. però si corre il rischio che succeda quello che è successo con questo testo, che poi togli, non era più una lettera, l'ho messo via e ne ho scritta un'altra. Era una lettera che ho scritto per un mio carissimo amico, che c'è ancora, però per tantissimi anni non ci siamo potuti vedere, perché lui faceva il cuoco e all'estero. È stato via quasi 10 anni, Australia, Svezia, Barcellona, Formentera, ha girato un sacco, insomma. Però era un amico importante, cioè la persona che mi ha fatto conoscere Guccini quando avevo 14 anni, quindi siamo cresciuti assieme, ne abbiamo condivise tante, per me era importante. Comunque, aspetto, come sempre, il tuo ritorno. Perché per il mondo si va quasi sempre, almeno, per tornare, poi, con un po' di mondo in tasca. Io, per ora, chiudo gli occhi. So dove trovarti, se voglio. Offrimi una sigaretta. Io le mie le ho finite un anno fa. Regalami il colore degli occhi in cui guardi e inventa per me di donne bellissime. Baci in riva al mare. Io saprò ascoltare, bere dai tuoi occhi e vedere le tue parole. Ricordi? Credevamo di fare la rivoluzione bevendo Molotov durante l'orario dell'aperitivo, seduti in qualche bar del centro. Tu dicevi che eravamo angeli. Sì, ma con l'inferno dentro. Siamo cresciuti tutti storti, come certi alberi in montagna. Abbiamo dato baci con gli occhi aperti, cantato canzoni con gli occhi chiusi. Insieme abbiamo pianto, ma con gli occhi sempre asciutti. Ricordi? C'era piovuto il cielo sulla testa e tu, fradicio, con il tuo ombrello piegato dal vento, dicesti che eravamo come pozzanghere, noi, immobili, ma con il temporale dentro. La notte a volte prendeva in mano un sax e ci suonava quel suo blues di sudore e baci, cominciava a morderci, senza farci male. Noi spegnevamo mozziconi di sogni sul fondo sporco di occhi senza sentimento. Tu dicevi che eravamo lampadine, accese, ma con il buio dentro. Eravamo allo stesso tempo belli e stupidi, come quella notte quando guardammo le stelle franare dal crinale del cielo, sgretolando desideri che poi non realizzammo mai. Tu torna quando vuoi, o non tornare mai, tanto lo sai, che mi troverai sempre, se mi pensi forte, appena dietro, alle palpebre chiuse. Daniele Nigne Vaienti, che aveva conquistato anche l'attenzione canina, va ammesso. Era venuto fin qui ad ascoltarlo, quindi... giuria, tenetevi da conto. Giuria sulle lavagnette. Allora, abbiamo un 10, un 7,3, un 7,5, un 8,3, un 7,8, va giù il 10, va giù il 7,3 e rimane 7,8, 7,5, 8,3 per Daniele Nigne Vaienti. Gli ultimi due. Un gran bel applauso ad Andrea Fabiani! Allora, questa... poesia parla di quando capita che scopri che sapevi una cosa ma non sapevi di saperla. Si intitola Non è stato. Non è stato a 11 anni, la volta che non tornò a casa il mio cane, miele, un cocker dal pelo arancione, sebbene per il resto della mia vita non abbia io pianto mai più così tanto. Non è stata quella mattina che per la prima volta ho visto la guerra in diretta per colazione, né quando anni dopo si è fatta vicina. Non è stata la sensazione di vuoto provata d'estate col motorino alla prima caduta, o la volta che con Carlo, Andrea e Luca siamo volati in un fosso su un maggiolino rubato. Non è stato l'ultimo anno delle superiori, quando nell'arco di soli 11 mesi abbiamo affrontato la scomparsa di 3 compagni di classe su 25. Non è stato quel pomeriggio che al TG5 abbiamo visto le torri crollare, o per le strade di Genova nel 2001, o la sera di San Valentino in cui la radio del bar ha annunciato che avevano trovato Marco Pantani, né la volta che Giulia mi ha detto non voglio mai più che mi chiami. non è stato il ribrezzo, provato vedendo mio nonno consunto dal cancro, non lo sgomento, per la sua piccola bara posata sul tavolo della sala in attesa della processione. Non è stata in quell'occasione in cui con le dita ho chiuso gli occhi a mia nonna mentre mia madre e sua figlia piangevano nell'altra stanza, o la volta che in pausa pranzo ho visto il rimorchio di un camion schiacciare un ragazzo che usciva da scuola. Non sono state le urla inumane di suo padre al di là della strada. Non è stata nessuna delle notti trascorse da solo facendo l'amore, o quelle sveglie con una donna addormentata al mio fianco a cui cercavo di celare il mio pianto. Non è stata l'alba aspettata in un camposanto con Gianmarco e Lorenzo, parlando di teschi, passandoci una bottiglia di whisky. Non è stata nessuna delle volte che si è mostrato a me in piena luce, ma un'atroce domenica sera, vedendo mio padre sollevarsi con più fatica di quanto avrei immaginato dalla poltrona, sentendo mia madre annunciare è pronta la cena, e è stato osservando le sue cartilagini, le sue ossa impegnate in quella nota meccanica umana usurata, che ho compreso per la prima volta e per sempre il peso inesorabile del tempo, la mortalità inevitabile di mio padre, la condizione dell'uomo, il fatto che moriremo. Andrea Fabiani, se non l'avevate ancora capito. Giuria su le lavagnette. A lui l'onore e l'onere di concludere questo turno finale. Un bel applauso a Luca Bernardini! E andavamo a queste feste bellissime, zeppe di gente, non ci si muoveva e c'era una parte al chiuso con la musica e poi fuori la zona fumatori. C'era davvero una calca incredibile, la gente che era fuori passava la sera a cercare di entrare, mentre quella che era dentro passava la sera a cercare di uscire. E tutti si chiamavano con gli amici e si cercavano urlando nei cellulari per la musica troppo alta e tutti alzavano le braccia per farsi trovare dagli amici e però non sentivano nulla perché tutti attorno gridavano nei cellulari che non sentivano. E il DJ toccava alzare la musica perché la gente si sgolava nei cellulari dicendo che la musica era alta e che non sentivano. Così poi toccava urlare ancora di più e poi nessuno si trovava perché avevano tutti la mano alzata. Così ci voleva inventiva. Mi vedi, sono quello che salta, ma poi tutti saltavano. Allora mi vedi, sono quello accanto alla porta che salta battendo la testa contro il vetro. Ma poi tutti saltavano battendo la testa contro il vetro e il vetro giustamente si rompeva. Comunque, nella folla beccavi un sacco di gente che conoscevi e ti gridavi come stai e ti dicevi bene, tu bene, buona serata. La cappa di fumo poi era suggestiva e molti chiedevano ce l'hai una sigaretta e tutti si dispiacevano di averne solo un'ultima, grazie lo stesso. Da bere c'era vodka lemon, gin lemon, vodka gin, gin tonic, tonic vodka, ma il più forte era il gin vodka gin, quello ti stendeva. Di musica speravano la classica hip hop da urlo con un po' di rap underground, un po' di voce gnocca bagnata e un tocco di elettronica sbombardona. Alcuni arditi ballavano vicino alle casse, ignari che sarebbe stata l'ultima volta che avrebbero sentito qualcosa. Il volume era talmente alto che se il barman non era stato bravo, il drink si shakerava nello stomaco. C'erano frotte di fighette impegnate a passare fra frotte di fighetti allerta senza incrociarne gli sguardi perché c'è tutto un codice per tirarsela. Far finta di stare costantemente chiamando, cercando qualcuno, far finta che la festa attorno, far finta che essere guardata, quando invece ci sono le brutte, la svendo ben vestite di trucco, le belle brutte, le brutte belle. C'è il viscido intellettuale che urla filosofie e psicostronzate e tenta di aggirare le mura, non te la do con la strategia, ma sa così tante cose e ci parlo così bene a differenza di tutti gli uomini. C'è lo sfigo sbronzo, unico elemento che da brillo riesce ad essere ancora più introverso che da sobrio. Si siede in un angolo e masturba il suo ego, pensando che qualcuna lo noterà e ne rimarrà colpita. Poi parte la canzone che tutte le ragazzine amano e scoppiano gridolini acuti e tutti accorrono verso la pista da ballo e si balla e balla la testa, balla il bacino, ballano i muri e la notte. E finalmente la gente che era fuori è riuscita ad entrare, quella che era dentro a uscire, delle feste bellissime, zeppe di gente. Grazie. Luca Bernardini. Giuria. Vegliatelo. Su le lavagnette. Non vorrei essere nei loro panni, giustamente. C'hanno il cuore che li sta mangiando. Vedete le facce? Le vedete le facce? Guarda. Le vedete le facce? Allora. Al quarto posto, con 73,2, un bel applauso a Daniele Gnigni e Vaienti. Al al terzo posto, con 75,5, Salvatore Zappia! E conquista il primo gradino del podio del campionato regionale toscano, non è cosa da poco. Come nella box, visto che questo è un gioco che, no, prende dalla box, c'è una differenza di soli 0,3 decimi, ragazzi. È una cosa serratissima. No, c'è la differenza. Non sono uguali per 0,3. Allora, vince le finali regionali Toscana, l'IPS, Lega Italiana Poetry Slam, e vola a Genova il 16 e il 17 giugno a gareggiare con altri 20 poeti da tutta Italia, da tutte le regioni, per conquistarsi il titolo di campione nazionale. Fatemi un ballo. Oh. Luca Bernardini! Fausto, i libri, Fausto, i libri, il premio. Ce l'ha fatta! Ha pagato tutto sto pubblico, ma ce l'ha fatta! No, sto scherzando, ce l'ha fatta, se l'ha meritato un sacco e ha il suo bellissimo premio, le edizioni pubblicate del Premio Dubito, l'unico premio in Italia di poesia e musica. Complimenti Luca, complimenti, grazie. E complimenti anche ad Andrea Fabiani, che è giunto secondo, ma comunque... Che voi magari non lo sapete, ma Andrea Fabiani è arrivato secondo l'anno scorso alle nazionali e doveva andare a rappresentare l'Italia alla Coppa Mondiale quest'anno, però l'abbiamo boicottata. Ecco. Fanculo a Parigi! Allora, grazie a tutti, siete stati magnifici. Queste cose si fanno soltanto con un pubblico del genere, quindi siete stati veramente una cosa esplosiva. Mi avevano chiesto di chiudere alle 11:30, noi volevamo fare un open mic a seguito del Poetry Slam, purtroppo però non possiamo farlo. Vi ringrazio un sacco, ci vediamo l'anno prossimo qui, ci vediamo con la nuova stagione degli eventi Fumofonico, seguite la pagina Lips, scusate, la pagina Facebook, anche quella della Lips, sono tutte e due. Lips, Lega Italiana Poetry Slam e Fumofonico. Così vedrete tutti gli eventi che vi riserveremo per voi a breve, perché comunque non ce ne andiamo da nessuna parte, restiamo qui a Firenze. Grazie mille a tutti, siete stati magnifici. Viva la poesia, viva la polveriera! Guarda i fan che si stanno in coda, cioè è diventato una star Luca adesso. No, lo so, figuriamoci.